Colin che se ti ho lanciato, stavi collegando? Stavo cambiando apparecchio. Dai, questo qua è l'Intec stazione base. Sto uscendo con due watt, come sta andando? Va bene. Sei due watt e un segnalone, 920. Questo che radio è già? Questo è l'Intec che stazione base. Non è Mobi come stazione base, quella che c'ha due strumenti. Cazzo, ma adesso ti sei aiutato però. Era avanzato in epoca, hai detto, ma cosa cazzo è pedendo che c'ho DAC? Sale, scende la marea, boh, un po' c'è i 9, un po' c'è i 9,20, un po' c'è i 9,40. Ah, che verassi lì. Dai, stavo provando. Cazzo la miscia, sembrava che mi sia staccato il PL. Boh. Non allora, poi metto 2 watt, ho visto lo smitto nuovamente quasi a sotto 6, quindi. Ma anche io infatti. Vediamo, aspettiamo tempi migliori, vedrò di prendere qualcosa di. Ma non lo so, quando non c'è attività, bisogna neanche voler di comprare. Ehi, attività, tanto siamo 4 miliardi, cosa devi fare? Ah, ce l'abbiamo in culo. No, ma più che altro qua è la cosa di provare, non, cioè, uno lo prende, vabbè, se va bene, se lo lascia, un conto è comprarlo perché gli piace, che lo vuole usare, un conto è provarlo e vedere un po' come va. Ah, beh, certo, io ce li ho e li uso molto poco, capito? Datemi un secondo, che devo, mi stanno chiamando dall'altra... dal salone. Un attimo che devo fare una cosa in verticale, scusatemi. Qua siamo. Io sto per andarmene, sta per arrivare l'ora X. Sì, già, se devi andare, vai, non c'è problema, già sono qua io, devo fare un'operazione al forno, sto arrivando. Kappa. Claudio, ti volevo dire una cosa, io prima, quando mettevo l'amplificatore d'antenna, mi aumentava il segnale, adesso me la bassa, non capisco perché. Come te la bassa? Perché te la bassa? Aspetta, parla. Ora, 1, 2, 3, 4, prova radio, perché te la bassa? Ecco Johnny. No, non funziona già, cazzo, deve aumentare, se no vuole cambiare l'amplificatore d'antenna, l'amplificatore a buccia d'arancio. Aspetta un minuto. Antonio, tu ci sei? Ci sto mangiando, ci sentiamo dopo. Parla. Siamo qua già, scusa che sono in verticale, sto facendo un documento. Prova a parlare, che sto provando questo amplificatore d'antenna. Sto facendo un documento già, devo mollare un attimino, dai. Ci sentiamo fra 2 secondi. No, dai, io chiudo adesso, dai. Comunque, come dico io, lo ammasso invece che alzare il segnale. Non capisco perché. Vabbè, ci sentiamo, dai. Buona serata a tutti, grazie per il QSO. Io sto chiudendo. Già, ci sentiamo alle prossime, dai. Stai bene, cordialità, baci e abbracci. Ciao. Ciao Gianni, ciao. Ciao Tino, ciao. Questo invece è il Galaxy. Stesso microfono. Tino. Questo è Galaxy Saturn, com'è la modulazione? Buona? Segnale? Il segnale è identico, qua. Non cambia niente? Aspetta. Già cambia, dai. Allora, facevi da 9,18 a 9,20, modulati. Quando è aumentato hai fatto solo 9,20, senza essere N positivo, fisso. Beh, così è 9 più 20. Così è 9,20, dai, voglio lasciare così. Sì, diciamo che... obiettivo, adesso invece è facile. E io, vabbè, dai, qua sono 120, 130 watt, dai. Ah, se non cambia, non cambia niente. E poca differenza, ti quando l'hai 120, cosa cambia? Non cambia nulla, poi sono distante. Io ti ripeto, quando ho usato il 747 hai visto la differenza da Porto Torres a voi? Sì, già sento la differenza, io voglio, posso salire io, però vedi cosa succede, guarda. Sicuramente è aumentata la radio, già il segnale, qualcosa, però si porta via la modulazione. No, per niente, non è aumentato ancora, è sempre stabile a 9,20, però la modulazione è rimasta intatta. La modulazione è rimasta uguale, cioè da così, così non cambia, guarda, questo passaggio, a quest'altro passaggio non cambia niente di modulazione. No, io non ho notato nessun cambiamento. E infatti il segnale rimane uguale. Vediamo. Allora, Bibo, passivo finale. Ora. Sempre stabile. Allora lasciamo stare così. Sono quasi 150, ma non cambia. Vabbè. Sembra che non cambiano da manco in occhi. No, non cambia la potenza di Hitler, ora, aspetta, anzi chi c'è al telefono, aspetta, c'è l'aria al telefono, sta cazziando un extra che ha fatto un casino di Gesù Cristo, lì a casa, in malattia, aspetta, allora questo deve andare così, e questo deve andare così, no, non va più di quello, te. Va bene così. 100 watt, va bene così. Va bene, sì. Andabex. E io infatti vogliamo uscire, non si va a vedere più tanto. Lo uso poco io questo, ho capito, giusto per avere un aiuto. Anzi, sai che ti dico? Che mi ha già rotto le palle, scendo un'aria a gas, la vita radio, gas, ma ammazzate, mi so, isci un gas. 26 gradi, mi so. Aspetta, spengo, aspetta. Passo col K. Vai. K. Ora. Bravo, gas. Cazzarola. 3:10, che attendo Ghiddo, va. Ha fatto un po' di passaggi con Ghiccio qua. Ho sbagliato un microfono. Hola Chico. Andare muchacho, andare. Non sai che rubare che sei. Ma dimmi quello che vuoi, modulare con i baracchini, bello quanto sia, sempre un baracchino, Asco. Questa è un'altra Cuba. Hola chico, vamos. Caffa, ecco qua, dai. Sono ritornato all'origine. E anch'io sono tornato all'origine, messo, spento tutto, e fino al gatto. Ciuccio, ciao, tira un calore col dacchio. Allucinante, ma qua ne ha girato, ha acceso il Galaxy ancora peggio, il sugar. Il volta mi volevo passare il DAC, come si chiama? Quello che stavo usando poco fa, sì, il DAC. Si chiama DAC, io ho il Mark 10, il mio è il Mark 10, non so che cosa c'ha lui. Io ho il DAC, il Mark 10, SSB, radio, telefono. Avevo mi sembra lavorato massimiliano, in età, passato a fare un lavoretto, però non so se l'ha fatto o meno. Qua c'era 2 anni quello di Marco, io manco mano per aggiungere lo mio, ho comprato il potenziometro, non me l'avevo cambiato qua a Sassari da Micronotte, perché c'era il potenziometro del Chrysler rotto, capito? E il dice di Marco che era 2 anni. Ma no, questa mattina questo qua devi attaccare, facciamo 220, non mi ricordo, non ho detto no, tutti di asso di anch'io. No, è 110, quando te lo dà fatti dare anche il trasformatore 220-110. E io lavoravo lì a Trinità, quindi Però deve portarlo tutto io quando ce ne viva, capito? Ma ok, non volevo andare con un'altra per lavoro, eccetera. Ce la portavo tutto io la Massimiliano, ero proprio lì davanti a lui. Avevo un impiantino lì vicino a casa sua, capito, che controllavo tutti i giorni la lettura dei contatori. E mi Ghinzi è tutto a posto, Ghinzi è tutto a posto. Mi, e io te lo voccio, mi, forse domani, forse da radio, ma io te lo voccio qua, tranquillo che te lo voccio. Sì. E venga, Massimiliano. E via. Fugio, sai, vedo. Fugio, anzi, la verità l'hanno fatto fondere. Non so se c'è la storia, comunque. Stiamo parlando di persone che intanto non lo conoscono. L'hanno fatto fondere, capito? L'hanno fatto fondere, perché quando l'ho conosciuto io era qua, un grillo. Poi si è accornato e si è fuso. Vabbè. Non lo so, però io l'ho conosciuto quando abbiamo piazzato il... Entrarice a casa di Walter, il secondo però. Ehi, figurati, io lo conosco una vita, perché io ci ho fatto più di 10 anni a Trinità, quella zona, facevo Trinità, Badesi, Montigioni, capito, tutte quelle frazioni lì. E quindi passavo spesso, molto spesso a casa sua, anche a prendermi il caffè, con quel scarsa minchia del padre. Allora, ma di tu, ma quindi questo, se tu metti un piombo, una lenza, sei la piombata del traliccio, davvero. Tu credo già non sa, ma non mi va di parolacci che c'hai bambini, per carità, tutto lui sa, anche a me, nel mio lavoro, specifico nel mio lavoro, sai quante volte, per dire, in quella zona dove Massimiliano è un casino, molte volte si è rotta la condotta, abbiamo fatto dei lavori straordinari da paura, e io giustamente ero sempre lì presente, quindi c'era l'impresa, c'era l'officina turitana, c'era Marangoni, che insomma gente con le contropalle che fa questi tipi di lavori, oh, ed è sempre in mezzo, e ma Ghinzi, io avevo il pumice, direi, togliere la mezza via, ma ti porto qui un colpo di benna, pittorra, a vedere che ti nesci. E vabbè, è così, molto attaccato al figlio, va. Ehi, guai, non lo mollo un attimo, se tu immaginati, adesso ti rilancio il microfono, tu immaginati che una volta, siccome eri molto molto amico del mio collega, che c'è una vita lì di Cagliari, non era radioamatore, però le portava un sacco di lavoro da Cagliari, di roba elettronica, perché lui, sai, ripara radar, scandagli, è molto bravo nel suo lavoro, molto molto bravo, è apprezzatissimo in quella zona, in Costa Smeralda è il number one. E ci siamo organizzati e mi ha detto questo mio chiamo, lui mi sentì trattini, tanto stasera ci abbiamo il rientro, anziché rientrare a casa andiamo a cercare, noi viene anche Massimiliano, è un paio di amici di Santa Maria, mi trattengo, non ne ha giù di bizzini minori da dare urati, va bene, avviso mia moglie però che non rientra a cena, mi trattengo, perché era un venerdì sera, di sabato eravamo, io ero libero, anche Nicola, insomma la squadra mia era libera, rimontevamo domenica e quindi mi sono trattato, oh cazzo quello babbo è giunto a mangiare la pizza. Se siamo tra amici, tra ragazzi, cosa vi fate, Edo? Cosa vi fate? Sì, no, non sono riuscito a mangiare, ma ha fatto l'ugabo a bumbuglio, e tu lo sai, l'ugabo, ma l'ha mangiato, io lo sai come lo chiamavo poi, succhia cervelli. Sì, vabbè, magari è una persona che si vuole mettere in mezzo al giornamento, vabbè. Antonio, gabba. E sa che c'è guaccio. Sì, no, è guaccio, non Antonio, bravissimo tecnico, è diplomato all'industriale, molto bravo, molto molto bravo. Tu immaginati che fa tara e non solo a taralli, ma in barche grossissime, in barche grosse, panfili, ma ti dico di grosse, la zona di Olbia, e c'è un sacco di lavoro, la zona di Costa Smeralda, Porto Portocervo, Portocervo Marina, da tutte le parti c'è un sacco di lavoro, è molto bravo, molto, ma è guasto, no? Guasto è che l'hanno fatto diventare guasto, è diventato soggetto, non guasto. Sto guardando su internet, c'è presente la radio che io, una vetrina, cioè, guarda, bella, per neanche un graffio, 350 euro, completa di tutto. Il 45? Sì, sì. Bella, buon prezzo. No, io la verità sto trattando tutta la stazione radio di un amico di Alghero che non trasmette più perché hanno fatto la tettoia, hanno sollevato il piano, hanno chiuso e non può piacere più antenne. Che tu ci hai parlato anche altre volte, e c'ha praticamente mezza sala radio mia, e ci stiamo mettendo d'accordo a un prezzo unico per portarli via tutto, ma sto parlando di radio, c'ha una bella radio di Aegio che gli avevo dato io, 910H che gli avevo dato io della Icom, c'ha l'amplificatore di Aegio che gli avevo dato io, la FL2100, c'ha tutta la linea completa della Aegio. Adesso ti faccio sapere in blocco a te quanto ti posso dare tutto. Infatti adesso appena mi chiama vediamo un po'. Se mi metto d'accordo le porto via tutto. Allora mi chiamare, non sono queste cose qua, Niente, per te. Cosa te ne vai? No, sapevo che ti serviva un 920 della IAEG, un FL2100, un 910H, e VE1, il base è VE1 910H. Ma io giorni fa ti ho chiesto una cosa, poi se vai è dimenticata tu. Ma anch'io ce l'ho al 3 mattino, ho superato i 60 io, quindi non è che... Questo è un blocco però vettino, singolo non vende niente, perché se vendeva singolo sarei passato a prenderti e saremmo andati. Questo vende in blocco, e sicuramente molto più di mille. Forse a 2000 non ci arriva, ma poco ci vuole, perché c'è una bella roba, l'ho volata quasi tutta io, quasi tutta io. Cosa c'entra il blocco qua? Se tu hai intenzione di prenderla, quello che magari... mi sarebbe piaciuto parlare a me, ti avrei comprato a te e tu avresti preso il blocco a te, a lui, no? Cosa c'entra quello? Infatti non possiamo andare in due, aspetto cosa mi dice, mi dirà il prezzo, sta quantificando, quando mi dice il prezzo te lo dico e se vuoi c'è le macchine andiamo e vediamo un po', se è fattibile io ti dico metti, perché io so già cosa c'ha, a me mi serve questo e questo, tu te lo prendi questo e questo, andiamo e le portiamo via tutto qua. Qual è il problema? Fammi sapere. Certo, vestiti, non cambia assolutamente niente. Non ti preoccupare, nel modo più assoluto. Io sto aspettando che mi chiami per dirmi il prezzo, perché io, tra l'altro, in questo periodo ho comprato un sacco di cose, ho comprato la 5 banda in verticale, mi sono comprato un amplificatore HF perché mi sto rimettendo in gioco, ma con calma, piano piano mi sto mettendo tutto a posto. Ho comprato il 140 di un amico che gli avevo dato io perché lo voleva dare e gliel'ho preso. Ho preso un sacco di roba, ti capito? Quindi non mi volevo caricare molto, però questa è roba mia, che conosco molto bene, se mi fa un prezzo buono andiamo e le portiamo via tutto. Sì, quello che mi hai detto, ma quello è bello, metti. Io quello lì ad esempio ce l'ho, quello della ICO, io ce l'ho, Marco me l'ha mandato al centro assistenza a riparare, perché era diventato sordo, ma io quello non me ne faccio niente, capito? Quindi quello lì può essere molto interessante, ma ce l'ha anche Walter quella lì, io ce l'ho avuta, era la mia quella. Vabbè. Comunque, già ti faccio sapere, a me quando mi dà il 920 la linea completa e l'amplificatore della IAESO, faccio linea IAESO con amplificatore, io gioco a Rivido, poi del resto non mi interessa niente. Anapex, va bene. Oh raga, però io ho fame, e qua c'è pizza stanotte, quindi io voglio fame, e allora vi saluto. Vi auguro buona cena a todos, se ci siete dopo, ma oggi la Befana, domani mi sa che si lavora. Oggi è giovedì o venerdì? Oggi è giovedì, domani è venerdì e si lavora. pizzeria. E invece qualcuno ha fatto ponte, vabbè, no, e l'aria a casa, sì, è a casa che non fa bene. Ha preso un sostituto che ha a dare una mano al bar, ma essendo un casino a trovare gli intesi a botti. Ci sarete recupero il telefono. Ciu ciu. Cos'è influenzata? Influenzata è, ma risultata positiva, capito, nonostante ci abbia dei vaccini, quindi è rimasta a casa. Vabbè. Il vaccino è, tra virgolette, copre, non copre, magari a forma leggera l'ha preso. Sì, in forma leggera, ma c'è un po' di influenza, le fanno male le ossa, un po' il collo, insomma, queste cose qui adesso sta riprendendo. Però non può rientrare perché ha fatto il tampone, quindi è segnalata, deve stare almeno 10 giorni a casa e poi deve rifarlo, capito? Per fare il molecolare, l'hanno già chiamata proprio stamattina, addirittura hanno mandato un messaggio per la prossima settimana, ma lì te la ci ha pigliato due più volte. È un suo carissimo amico e l'ha preso perché, cazzo, cioè, ha gestito il bar per tanti anni. Ti chiedo una cortesia, insomma, di organizzarmi queste cose, fanno queste cose, cazzo, i clienti stanno chiamando l'aria, stanno lamentando, vuol dire qualcosa è successo, ma adesso mi farò spiegare. Va bene ragazzi, io vado a mangiare, dai, ci sentiamo, ciao a todos. Va bene, ciao. A tu. Ciao qua, ci risentiamo. Ciao Anthony, dai, se ci siete a dopo, io non mi devo alzare molto presto domani, verso le 9:30, quindi non sono né di primo turno né di secondo, sono a riposo. Gappa. Invece due a travagliare deve andare domani. È già un grido via! No, se ne vai a Maron, giocato un po' di Ava Ponti. Non si può. Ah, è vero. Ordine pubblico. E come fai? Il nostro già è un lavoro difficile. Lavoro difficile è lavoro un po' complicato, però. Va bene, dai. Voglio, vai a fare. Ciao. Ciao. Ci sentiamo. Ciao. E ragazzi, purtroppo noi. E così è. Ma è un lavoro comunque che eviterei farlo io. Apri una cosa, mi apro io, sì. Vabbè. Chi ce l'ha se lo tiene, però non lo so, dipende tu. Le cose vanno fatte con il cuore, se le fai di mala voglia non c'è il tanto, capito? Il problema è questo, che me ne è passata la gana. Troppe cose che fate male. A prescindere, poi sai, è sempre è contro l'età, ma c'è l'età, poi non è più voglia di fare quello che facevi da giovane. Esatto, me ne è passata la gana. Io so, cioè, se riesco che avrei qualche soldo, mi sa che mi apro un localino, mi apro e basta. Lavoro così, no? Non è più gana di dare da bombole, no? Molte volte la mattina è un casino alzarmi, pure in certi giorni che magari lavoro tanto lì, mi fate male la china, un casino. Guarda, non ti credere che anche l'operare sia una cosa, insomma, ci vuole pazienza, molta pazienza anche l'operare. Sì, vabbè, ho un circo, mi apro, qualcosa del genere. Una cosa tranquilla, mi lavori a quelle ore lì e basta. Ma un attimino, Anto, scusa. Scappa. Avanti, chi è? Scusa, Anto, sto parlando in verticale. Ma devi chiudere? Ho visto un altro segnale. Ah, scusa un attimo, sto parlando in verticale. Vai. Figlia, no, stavo rispondendo a mio figlio che mi ha fatto una domanda. Gappa. La verità, io no. Un qualcosa del genere mi voglio sistemare così. Faccio quel tanto di ore e basta, me ne andare a casa. Stare tutto il giorno lì è pesante, ti giuro che è pesante, stare tutto il giorno lì, no. Sì, lo so, ma io ti ripeto, mio padre l'ha fatto per una vita il barista, non un locale piccolo, cioè, insomma, c'è un importante, l'ha conosciuto a Sassari, facevano anche trattoria, capito? Quindi trattoria, bar, sino a quando poi è andato in pensione, però era brutto nel senso che insomma si entrava presto ed entrava a casa a l'una di notte, non è che chiudevano a mezzanotte, tra una cosa e l'altra, faceva pulizia, quelle varie, quindi arrivava a casa a mezzanotte e mezzo, l'una e un quarto. Lo so. No, io mi voglio fare un qualcosa che di tranquillo, capito? Un qualcosa di tranquillo, senza ammazzarmi assai. Sì, vabbè. I soliti, i classici locali, così lo chiamano. Aiutami, non vendiuri. Come si chiama? I circoli? O qualcosa del genere, che ti dico si attrezzano ora, vai, travagli, tranquillo. E via. Una cosa tranquilla, mi capito. Senza ammazzarmi molto di lavoro. Sì, ho capito. Vabbè. C'è un amico qua in Asso, conosci il Bonapora. Gianni, ce l'hanno anche mio, ma anche lui lo stesso si alza a una certa ora, si fa le sue rette, però molte volte passi richiuso, insomma, dipende, uno con un'attività deve anche cercare di rispettare certe cose, nel senso che la gente quando passa deve trovare aperto, non è che deve trovare chiuso. No, quello sì, ma se per esempio proprio io magari posso usare io. Però se magari non ce la faccio, metto pago una persona e me so che a casa. Quello è un paio di ore, c'è una cosa tranquilla, capito? A me ho la possibilità di lavorare anche un'altra persona. Ma quello devi vedere tu se c'è soltanto per almeno tre persone, perché tu devi calcolare il tuo guadagno. Il guadagno di chi fai entrare a lavorare al posto tuo e il guadagno per poter pagare le cose che vendi, capito? Quindi non devi, cioè se tu guadagni 100 euro, non è che 100 euro vanno a te e a lui, vanno 100 euro vanno divisi in tre fasi, nella bere, nel tuo guadagno, perché tu avrai delle spese per quanto riguarda luce, acqua, le bevande, ballonari, e tu devi pagare un operaio, capito? Vediamo come, certo, se lo fai lavorare già ti esci un tanto. Vabbè, sicuramente è una cosa più leggera anche, diciamo, bucchini di mesi, pacchini di rachina, è molto più leggera. Poi se manco io ci metto una persona e basta, capito? Cioè, una cosa più tranquilla, se mi sono corrompito di catturi a... lascia perdere. Lo so, ti capisco, no? Perché è pesante, poi diventa una cosa stufante, insomma. Avere una cosa tua è già più importante, però, perché stai entrando in un mondo dove devi pagare determinate cose. Lo so, è un zuppareipina, cosa devi fare? Magari più leggero, io sono più divento più tranquillo, sinceramente no, ci sono due giorni in una giumancugana mi andate, non mi piglio di male. Vabbè, purtroppo così, però se vuoi qualche cosa devi lavorare, poi vabbè, ci sono quelli che non lavorano, non li aiuti, però non hanno la possibilità di fare altre determinate cose. Guarda, lo sai che andrò contento, quest'estate quando ho fatto un po' di giornate a un altro, gliel'ho portate io le bombole, ero contento, la verità, Maguzzi ufficio, non mi date soddisfazione, perché la pura va via ridina in busciacara. Scappa, ma si maneri anche perché c'è una questione che mi rompendo di cazzo. Sinceramente, c'è un po' così, un po' giù, capito? Ecco, non è d'accordo con il principale. Così, già vado d'accordo, ma purtroppo ci sono altri problemi, ci sono, che a me non mi piace più, che già ti spiegherò un giorno in verticale, che mi sto stufando. Se no, di dire se mi dai burro ridina, cioè, secondo com'è già va, mi va anche bene, forse, però c'è un problema che mi sta girando, veramente. Non so, perché purtroppo, le persone quando lavorano vogliono essere pagate, ed è giusto che sia così. Se poi ci sono dei ritardi, uno deve parlarne e vedere un po' se ne vale la pena aspettare o meno, però l'operaio vuole pagato. Il problema è un problema un po' particolare, che poi io già ti dirò, è un problema un po' particolare, non è che non pagano. Il problema è di un'altra persona, che mi sto stufando, capito? Capito. Vabbè, non c'è problema, tu. Tieni, non spintare 420, tienitelo per te. Cerca di arrangiarlo, se cosa è. Scappa, vabbè. Può per resistere, cosa fai? Però mi sto bugiando, mi sto stufando, no? Non la giugare più. Io quando vado al lavoro voglio vedere i soldi. Se no, mi piglia la mala gannamara, mi piglia. Vabbè, anche perché poi ognuno, credo che si metta degli impegni e devono essere pagati questi impegni. Se non ci sono i soldi è un casotto. Cappa, io mi piano piano sono cadesso un casino, perché con questo Covid, sai, se no qualche seratina la facevo pure. Tutto questo macello che è successo, se no va, vi sono tutti quanti i bordelli e cose, c'ho l'impianto fermo pure. Se no qualche serata la facevo, erano soldi, qualcosa, invece Purughi si è andato a mare. Ho capito, cosa facevi? Serate lì sempre ai circoli? Qualche dove capita, serate musicali posso fare. Ho capito, bello. Capa, invece è andata male. Cioè, c'ho il mixer fermo, ho comprato un mixer grande e c'ho fermo e uia, per carità, se non si sblocca qualche po' di lavoro qua andiamo bene. Vabbè, queste cose è meglio sempre averle, se poi ti piace la musica e quelle varie, già, insomma, le cose già cambieranno, va. Mi piace sì, perché a me mi piace cantare, quindi ogni tanto. Ma musica sassarese o altri tipi di genere? Sì, tutto. Qualche brano di Gelentano, qualche brano di Goso, di Morandi, qualche brano... Sto provando a fare anche quella che è uscita nuova, quella dei Pinguini Nucleari, Castello Bianco. Un po' di canzoni Vasco Rossi, quelle vedi mi escono bene. Già, mi piace, sono appassionato alla musica, mi piace. Beh, sono contento. Adesso sono parecchi giorni che non canto, spero cazzo questa settimana di andare in qualche posto a cantare. settimana è critica, la cosa sta andando a peggiorare invece, quindi... Ma io ci metto sempre il punto di domanda, c'è qualcosa di strano, beh... chi lo sa, chi lo può mai sapere? Purtroppo, cioè, tu avrai lì, adesso in questi mesi, tra febbraio, dopo febbraio comincia già maggio, allora cominciano a diminuire i casi, tu avrai a vedere come ti dice, come comincia il caldo, comincia a diminuire i casi, strano, un po' di domanda. Ah vabbè, perché il freddo porta al raffreddore, porta all'influenza, quindi quello ci sta. Scappa, secondo me è qualcosa di strano, guarda. Fatelo dire da me, c'è qualcosa di strano, cioè. Diciamo che un po' di, insomma, di cose loche ci sono in giro, perché anche per il fatto dei tamponi, qualche business c'è di sicuro, però ci sono anche purtroppo dei morti, quindi. Però vedi che cosa di strano, non lo so. Dai, diciamo successivamente, ma adesso in questo periodo che è freddo, che cosa? È logico che malanni uno se li prende. Cosa pretendiamo? Lo so, appunto, per questo dicevo, ci sta nell'ambito climatico, c'è questo fatto dell'influenza. Beh, è normale. Bisogna vedere se i tamponi ci sono regolari, perché molta gente ha le bocce in quarantena, non va via manco un sintomo di niente, non sa cosa vuol dire niente, e lì lascia cioè, ti lascia un po' perplesso. Già è anche vero, però, che io conosco un sacco di gente che lavora all'ospedale, ma la cosa è seria. Già non credo già che è seria. Ma le busciacca, le dite i dottorini, è seria. Mi sa che è seria vero, ma di altro genere. Secondo me c'è qualcosa di strano, cioè. Mi sono sovvenzioni un ben chissà cosa, una cosa paurosa. A me mi lascia un po' perplesso, la verità non è che mi lascia un po' così, capito? Non è bella la situazione, però purtroppo insomma, bisogna combatterla anche. Ma io sono una persona che osserva molto e sto guardando sempre come si comportano anche questi del governo. Ci sono un sacco di cose strane, ci sono. Sono molto permissivi in certe cose ed altre, cazzo, fumiano i casini. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, l'abbiamo visto un po' tutti, perché effettivamente cioè, fanno sempre le cose che va bene a loro. Però cosa vuoi farci? Io sinceramente non so più come comportare, perché non ti fai il vaccino per dire non puoi andare a lavorare. Se poi sei positivo è un casino, insomma queste cose qua sono da controllare anche. Sì, ma è così, ci stanno costringendo a fare cose. Poi anche se tu hai notato, con i sussidi sono molto permessivi, e prima queste cose erano anni che non si vedevano. Con tutte quante le cose, vecchia, che cosa di strano, beh. Ah beh, su quel fatto lì sì, infatti si fa fatica anche a trovare del personale di lavoro. Sì, vabbè, qui c'è un'altra storia, È logico che la gente, cioè, si ridà un mate si tanto qui. Che cosa dici? No, grazie, mi tocca a casa, mi tocca con mia moglie e te la pigli in luce. Vabbè, poi ce ne sono certi che sono mandroni, non è che è proprio travagliano, gli sembra vero. Ma ce ne sono certi che se ho fatto 2+2 dice, ma che me lo fate fa? Cioè, andate a travagliare. Ci sono tante cose da valutare, ma quella la colpa la do ad altre situazioni. Anche nei cosi non si sono mai comportati bene, i ristoratori, le cose. Cioè, a dirgli alcuni, guarda, se vuoi lavorare così, mi si no pigliesti in Nande, anche quello non ha fatto bene negli anni. È logico che poi cosa succede? Trovo un'occasione del genere e ti mandano a quel paese, ti manda la gente. Beh, però se tu prima andavi in cerca delle persone per lavorare, le persone se ne vanno in casa ben pagati, capito? E tu ti fai poco e niente. Vabbè, però ripeto, il culo io vado, me lo faccio, se mi dai quello che voglio io, c'è il tanto, io mi sto zitto, non dico niente. Ma quando comincia già in certe situazioni, mi dà parecchio fastidio, la verità ti dico. Beh, certo, certo. No. Se poi giocano a ribasso, allora vuol dire che vogliono che tu te ne vai e ti licenzi tu, capito? Perché poi ci sono delle cose in mezzo. Se invece ti licenziano loro, ti vogliono dare la liquidazione, il TFR, insomma, questa roba qua. No, ma il problema è che tu alcuni li senti da come ti fa vedere già dalla prima volta. Se sono pomparroni, se una persona seria te ne accorgi. Se un pomparrone vuoi sempre tirare ribasso, vuoi sempre paghi se goce. Lo so tu. Ma infatti se non mi sbaglio un tempo, qualche giorno fa, ti avevo detto che tu dovevi dare le tue cose, dovevi fargli vedere, capire cosa ti interessava a te. Se lui era d'accordo, va bene, se no se ne deve fare. Guarda che difficile trovare gente che lavori, che voglia lavorare, quindi se ne può approfittare fino a un certo punto, ma dopodiché dice, no vabbè, ecco, fallo tu che va bene così. Sì, lo so ti. Purtroppo anche la gente che ha ganato di travagliare si acciappa a bombo, perché guarda, ci sono anche su cose lavorative più pagliacci che persone serie, perché cioè, persone serie ci contano poco, perché la persona seria ti paga, sta zitto, ti fa il lavoro ed è tutto a posto. Lo so, però c'è da dire anche una cosa, che tu se lavori in la ditta cerca di fare il tuo benessere, però a questa ditta magari non lo pagano, quindi è un casino, cioè non c'è più serietà sul lavoro in tutto. Prima, diciamo la verità, che chi ha fatto i soldi li ha fatti negli anni 70, 80, 90, quindi oggi viene più difficile fare quei soldi lì, capito? Hai ragione, hai. Adesso i soldi non ne fai più. Però anche adesso, secondo che lavori devi fare, devi essere a posto, sennò non ti pagano. Soprattutto ci sono lavori che dipendi dallo Stato, devi avere tutto a posto, sennò sono cavoli tuoi. Ti pagano in banda, poi andare a farti pagare e non ti pagano in nulla. Lo so, devi avere il tuo a posto, se no non mi puoi fare certi tipi di lavori. Noi stiamo lavorando per dire lì all'ortobotanico, e se non sei in regola non ti fanno neanche entrare lì, perché è una cosa che devi essere in regola, se no non c'entri neanche. Ma a me mi pare il buruiu su me. È giusto che sia così, però voglio dire, se è vero che tu mi fai mettere in regola, che mi fai fare il duro che è a posto, tutto quanto, e poi ti faccio un preventivo e tu giochi a ribasso, cioè questi soldi qua che ti danno, perché vuoi giocare a ribasso se prima mi hai fatto firmare un contratto dove tu mi davi quello che ti ho chiesto, capito? Questa cosa qua vuol dire che vuoi chiedere qualche bussarella, qualche cosa qua, a me mi fai pensare, capito? Perché è un truffatore, una cosa. Sarà un truffatore, però se sei lì è perché stai lavorando, perché sei in regola. Se invece non ci entri tu non hai neanche quello, hai capito? Quindi ti viene pesante un po' di tutto mantenere l'attività. Ma io dico, ma se tu fai un lavoro ce l'avrai anche il guadagno, perché che vuol dire giocare con queste cose? Vuol dire che ci rompio. Se io ho un lavoro, devo, ti ripeto, devo avere la possibilità di guadagnare io in primis, pagarmi le spese, perché ci sono delle spese che ci girano attorno e più per gli operai. Quindi se il prezzo che ti faccio a te non ti conviene, tu mi dici no, non ce la faccio, non ti posso tenere. Non è che prima mi dici di sì, mi fai fare uno o due mesi e poi mi dici non ho soldi per pagarti. In quel caso lì tu mi stai mettendo il bastone fra le ruote e tutte le spese che ci sono state in quei due mesi che ho lavorato sono sotto le mie spalle. Vuol dire che hai fatto qualche cosa, hai fatto gioco che non volevi fare, perché mi sembra strano, perché se tu hai preso il lavoro per tutto il prezzo, tu hai preso, cioè hai fatto cose per tutto il prezzo, è tutto, il guadagno tuo ce lo devi avere. Se tu non hai guadagno, non mi vuoi pagare come ti devi pagare, vuol dire che hai fatto qualcosa che non deve andare. Ma c'è gente così anche in queste grandi. E in queste grandi strutture, capito? Cercano sempre quello che ti costa meno per poter mettere in saccoccia anche loro qualcosa. Se tu noti, addirittura noi abbiamo gente di dove sono, aspetta, come cacchio, sì, di Lecce, mi sembra che siano, e intonacchine di Lecce, e cartongessisti, ma insomma qua so se perché non ce ne sono. Ma che cosa che non anda, beh. Sì, è evidente che quelli hanno fatto un prezzo più basso e quindi si hanno appioppato tutto il lavoro, capito? Magari qua a Sassari si lavorava per un prezzo e a cui non andava bene, e allora hanno cercato altra gente di fuori. No, tutto un macello, se ti impigliano il travaglio a te, fa nulla, cioè, per carità, lasciamo perdere. Stai lavorando all'orto botanico tu? Sì. Se non mi ricordo dove, cavolo. Sì, Sant'Anna. Sì, ui, allora questa... Lugavo. E quel caseggiato rosso che sembra un serpente degli studenti. Sì, ho già capito. Invece dall'altra parte, non so se sai dove sono gli zingari praticamente, a fianco dei zingari c'è il carcere minorile. Sì, lo so. Anche quello l'ho fatto io gli scavi. Scappa. Io, il mio principale, però ce l'ho lavorato io. Sì, oggi mi ricordo, cavolo, non mi veniva in mente, non era. E lì c'è un sacco di lavoro da fare, solo che aspettiamo, vediamo un pochino se si muovono le cose, anche perché poi il tempo non è a nostro favore, perché stava sempre piovendo, capito? Quindi un po' piove, un po' deve rimanere fermo, quindi andiamo a fare altro, però il punto, diciamo, dove c'è più lavoro è lì. Scappa, ma lo scavatore non è orgoglio. No, non è il mio, ma è come lo sia, nessun problema. Scappa, sono belli quel lavoro, cioè quel lavoro lì. Molti si sono messi in proprio. Tipo conoscevo a cosa, come si chiama? Quello che aveva un vecchio Fiat. Che faceva il lavoro in proprio, non mi viene in mente come si chiama. Mio antropio, chi? Giampaolo. Mica un po' adesso non so, l'avrà cambiato. C'era un vecchio Fiat, c'aveva come camion. E trasportava anche il coso, lo scavatore. No, poi c'è Fabrizio lo stesso, Fabrizio Maia. Non mi ricordo il cognome. Vabbè. Ma sai cos'è, che molta gente in questo ambito qua, diciamo che è riuscito a prendersi un mini scavatore, si sono messi lì a fare piccoli scavetti, ma voglio dire, l'esperienza lascia un po' a desiderare, capito? No, non c'è uno scavatore grande. Ho capito. Non so, molta gente l'ha preso, però con la scusa che non costavano tanto, si sono impegnati qui 10-15 mila euro e ci hanno preso un mezzo del genere per poter fare questi lavoretti qua, quindi non è più come prima che ce n'erano pochi e ce ne sono una marea, quindi lì diciamo che puoi giocare sul prezzo, hai capito? Non conviene a farlo, no? Sì, vabbè, diciamo che come tutte le cose, molte volte si lavora per via conoscenze, quindi chi ti conosce ti chiama, quindi... Conosco a quello che lavora con l'altella, c'è anche lo scavatore, si chiama Piga... No mamma, quello che è sempre in via, c'è il camion fermo lì in via Ruffilli, quel vecchio e vecchio. Io non è che li conosco tutti. Piga, non mi viene in mente. Su 5M. Ho capito. Capa, già lo conosci, se lo vedi lo conosci, capo, non mi viene il nome. Ho capito chi è. Comunque, non è più come una volta, prima c'era un sacco di lavoro su questo fatto qua, invece adesso è sempre meno. Ma cosa bisogna di dite? Bisogna di? Un bel di dite ci sono. Vabbè, ma le dite devono anche lavorare per poter andare avanti, non è che... No, ce ne sono tante, per quello che poi lo travaglia più nessuno. Sono vinto. Per quello ti ho detto, lavori sempre con la gente che ti conosce, perché chi ti chiama sa come lavori, sa che sei fidato e lavori bene, se no niente. Io non chiamo un picco pallino qualsiasi, ho provato anche a chiamare una persona, ho visto come si lavora e ho detto scusa, ma tu che lavoro fai? io sono un uomo, tu sì, e mi sei due dici, sì, perché non è così che si lavora. L'esercito funziona Fuglione. Vabbè. Ma buono tu dai, che ne preparo a... Mettere qualcosa sui denti. Cappa dai, ci sentiamo. Ciao. Tanto. Alla prossima. Ciao. Buon fine Befana. Buon tutto. Ehi, ciao, ci sentiamo. Ciao.